avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait. Oggi so già che mi sto avventurando in un terreno molto difficile, anche perché sono totalmente solo. E quindi faccio totale affidamento nel contributo di quelli che mi ascoltano. Questa mattina sono fondamentali perché voglio riprendere il discorso lasciato sospeso venerdì e vorrei approfondirlo con l'esperienza di ogni persona che mi ascolta e vorrà appunto chiamare all'800240024 e dare il suo contributo. Vi ricordate? Ci siamo lasciati con una facezia, con un gioco, con un divertissement. L'11-11-11 alle 11-11 cambierà completamente il nostro punto di vista, entreremo in un'altra dimensione. Beh, l'incessante avvicendarsi degli episodi di questo fine settimana in realtà ci ha portato in un'altra dimensione, però nell'impressione che ci trovassimo proiettati in un altro mondo, in qualcosa di totalmente diverso. Qualcosa che noi sintetizziamo in un cambio repentino, veloce, molto affrettato data le contingenze dei tempi compagine governativa. Una vicenda di ordinaria o straordinaria politica, non sta a me giudicarlo, non è questo il mio tema, il mio argomento, ma che comunque emotivamente è stata seguita dal nostro paese come se fosse un cambiamento fondamentale. Probabilmente ciò avveniva soprattutto per chi abitava a Roma, luogo geografico e centrale di questo cambiamento, ma oggi le geografie fisiche sono abbastanza labili e dilatabili, i media ripercuotevano l'immagine di una popolazione scesa in piazza, che si muoveva in una sorta di triangolo istituzionale, fatto di Piazza Montecitorio, fatto del Colle del Quirinale e fatto di Palazzo Grazioli, residenza dell'ex premier Silvio Berlusconi. In questo momento abbiamo visto quella che è la sintesi di ciò che può maggiormente caratterizzare questo tempo. È una mia vecchia passione che spesso ho riportato ai miei ascoltatori di caratterizzare l'epico passare dei decenni. Gli epici anni 60, i fantastici o terribili anni 70, gli ottimistici e edonistici anni 80, gli indecifrabili anni 90, anni di passaggio, anni liminari, poi gli anni 0, poi gli anni 10 che stiamo vivendo. Ecco, di questi ultimi decenni che definizione diamo? Soprattutto se dovessimo raccontare ciò che è accaduto in Italia in questa fine settimana, come lo racconteremmo? La domanda è oggi: definiamo quello che stiamo vivendo, definiamo quello che siamo, definiamo se realmente questa mattina ci sentiamo diversi, ci sentiamo di aver passato uno di quei soliti portali della storia per cui prima era in una maniera, poi diventerà assolutamente in un'altra maniera. 800240024, non vi preoccupate, si tratta semplicemente di pensare un attimo e raccontare come ci si sentiva venerdì e come ci si sente oggi. Episodi molti hanno paragonato, magari esagerando un po', a Piazzale Loreto, ma in realtà è vero, l'Italia è scesa in piazza con una sorta di tifo da stadio. Era fondamentale nell'interpretazione del nostro tempo, non nella necessità di dare una chiave di lettura politica, era importante, necessario che qualcuno concretizzasse quella che è stata l'afflato, l'ansia, la dialettica aspra di questi ultimi anni. Essere in una maniera o essere in un'altra maniera, essere contro qualcosa, a favore di qualcosa. Guardate, ho avuto la mia personale dimostrazione. Questa mattina avevo messo su Facebook la mia proposta di parlare di questo. Definiamo il passaggio, cosa è accaduto, come ci sentiamo diversi, cosa è cambiato, qual è la percezione della qualità del tempo che stiamo vivendo che è cambiata. Mi ha subito scritto un ascoltatore dicendo: ha ignorato il tema abile terzista per lungo tempo, e ora che la vittima terra naspa perfetto italiano, tra gli altri seppur molto erudito, il classico calcio sulla vittima a terra a sesti. Ecco, semplicemente aver detto: ma una volta tanto parliamo di questo. Ne ho parlato non perché sia terzista, perché non mi appassiona la politica, non mi appassionano i discorsi omologati, i discorsi che fanno tutti. Non trovo interessante parlare se uno è contro, sia contro Berlusconi o a favore di Berlusconi, ma visto che ormai questa fattispecie rappresenta il passato, perlomeno rappresenta un punto su cui gli italiani sono scesi in piazza per manifestare con tifo da stadio o la loro disapprovazione o anche la loro approvazione, vale la pena oggi di fare il punto. Come racconterete ai posteri esattamente questo passaggio? In futuro dei libri di storia questo racconteranno. Io sfoglio i libri di storia dei miei ragazzi e vedo che in fondo la contemporaneità, bene o male toccata e lambita, anche se naturalmente con grande senso di distanza rispetto a quella che è l'esperienza personale. Quando io vedevo i miei genitori guardare i miei libri di storia, cioè vedi, oggi la storia la raccontano a modo loro, e noi sì che l'abbiamo vissuta. Ecco, il tempo che è passato, l'impressione di aver vissuto comunque ormai una fetta di storia fa sì che averla scritta, raccontata, uno immediatamente fa la differenza, trova immediatamente qual è la forbice di distanza, la propria esperienza, quello che gli altri raccontano. Riguardo a questo tempo, voi come immaginate che verrà raccontato e come voi lo raccontereste? Francesco, buongiorno. Buongiorno. E non credo nella numerologia, però c'è una cosa curiosa che è un gioco che mi piace fare. Perché Italia si è aperto un portale, il portale del nuovo governo, 33 ore e 33 minuti dopo le 11:11 dell'11:11:11, cioè 11:11 per 3 ore dopo quello radio fatidico. È un ritardo tutto sommato in armonia con l'11:11. Sì, poi bisogna vedere anche il numero 33, quanto influirà su quello che accadrà nei giorni seguenti, perché qualcuno dice anche questo. Comunque è interessante, lei ne fa una lettura numerica. Lei dice, se lei dovesse raccontarla al futuro, immagini lei storico fra 20 anni, e dicono: racconti un attimo quel passaggio del 2011, lo racconterebbe così. Ci fu una singolare coincidenza numerica, questo direbbe lei. Singolare, è un gioco perché io... Ma è un punto di vista. Io questa mattina mi piacerebbe sentire più punti di vista possibile. Antonio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti, buongiorno. Di che? Complimenti di che? Già cominciamo subito. No, in generale. Grazie, vabbè, meglio un complimento con calcio in bocca. Allora beh. Antonio, lei come la vede? Ma io volevo trasmettere semplicemente una sensazione proprio che ho vissuto, che mi ha sorpreso, no? Mi sono sorpreso di... Però lo racconti come se lo raccontasse fra 20 anni, non come se lo raccontasse adesso. Tra 20 anni... Direi, cosa accadde 20 anni fa, Antonio? Lei si ricorda? Accadde quello che tutti insomma, via, insomma, noi auspicavamo, ma... Voi chi eravate, Antonio? Sembrava impossibile che accadesse. Ma chi eravate voi, Antonio? Si ricordi? Quelli che non... Lei è un vecchietto, non... adesso, a 20 anni, vecchietto, è un uomo, sì, maturo. Eravamo quelli che non erano felici in quell'epoca, quindi... Non... Ah, e cosa vi mancava, Antonio? Non ci rispecchiavamo in quella società basata sul cinismo e sulla superficialità e sul cinismo. Queste cose mi vengono all'improvviso, quando meno ce l'aspettavamo, forse. Fu Capodanno, cioè io venerdì ho vissuto questa sensazione. Quel venerdì di 20 anni fa, perché siamo nel 2031. Quel venerdì all'improvviso è come se ci fu questo Capodanno fuori stagione, non c'erano, io mi aspettavo... E cosa fece quel giorno? Si ricorda lei? Dopo 20 anni è difficile, ma si ricorda? Andai alla finestra, ma non esplodevano i fuochi d'artificio di Capodanno, però era comunque Capodanno. La mattina dopo i negozi stranamente erano aperti, perché essendo il primo dell'anno, però i negozi erano aperti. Aperti, di solito accade che la domenica siano aperti, soprattutto in alcune città, anche soprattutto quando, ricordo quegli anni, avevano molta merce in venduta, soprattutto la stagione fu particolarmente clemente, e vedere le pellicce, pellicciotti, giubbotti, le scarpe da montagna esposte nelle vetrine, quando andavamo in maglietta, in camicia leggera, ci sembrava anche un segno di qualcosa che stava cambiando, era diverso. Paola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cosa accadde? Siamo nel 2031, non se lo dimentico. Vent'anni fa, si ricorda lei? Sì, infatti me li ricordo molto bene e mi ricordo anche il senso di impotenza, di ansia che ho provato, perché mi sono sentita per la prima volta nella mia vita di avere perso la libertà. Ma non parlo di perché... Quindi un punto di vista antitetico, radicalmente antitetico rispetto all'ascoltatore di prima. Sì, e le spiego perché. Allora, prima di tutto perché io non faccio discorsi di tipo politico. Allora li faceva? Allora li facevo, ma mi ero abbastanza disillusa, diciamo, negli ultimi mesi. Quello che avvertivo sostanzialmente era il fatto di sentire sul mio collo, come italiana, come europea. Allora era un giovane collo, e fresco di fanciulla, piena di speranze, 20 anni fa. il fiato. Lo ricorda con nostalgia. Sì, il fiato di qualcuno di molto potente, di molto pressante, colui che controlla, sto parlando di quelli che hanno in mano le leve della finanza, quindi il denaro, che ha deciso questo colui, questa entità, ha deciso di sovvertire un governo, ha deciso di mettere in campo... Ve lo ricordo, è molto fresco, sono passati 20 anni, ma lo ricordo come se fosse ieri. Io ho una buona memoria. Forse io. E quindi il suo collo sentì minacciato da questa novità che veniva da un luogo che lei non conosceva, che l'ha tolta da un idillio, da una situazione in cui si sentiva serena e tranquilla. Abbastanza, con meno certezze, ma comunque con un'autonomia e una certezza. Perché comunque nei miei anni che ho passato in Italia, bene o male, si è sempre parlato di debito, si parlava di problemi, ma l'Italia ce l'ha sempre fatta. Stavolta l'Italia, in quel giorno di venerdì 11, che era anche un venerdì, e il venerdì non porta buono, tra l'altro, quel venerdì 11 ho sentito che qualcuno ha preso in mano i remi di questa barca e la cosa non mi è piaciuta. Finì la felice epoca della ciccia baffa e iniziò il periodo del rigore e della tristezza, così la vede. Renata invece. Ah, eccomi. Siamo nel 2031, come ricorda quel lontano venerdì? Cosa accadde? Come cambiò? Nel 2031 siamo. Sì. E come ricordo? Io mi ricordo, veramente, io mi limito a ricordarmi nel 2011, perché mi ricordo perfettamente che quando ho visto quest'uomo, non parliamo di chi. Guardi, io non pretendo, io 20 anni fa non mi ricordo proprio nulla, lo dica perché. Invece io lo dico perché per le mie sensazioni me le ricordo benissimo, perché sono quelle di adesso. Era molto giovane allora, i ricordi giovanili. No, io ho 70 anni. Adesso 70. Ne ha 90, quindi aveva allora 70 anni. No, io soltanto adesso mi sono rilassata, perché è una questione proprio fisica. Si chiama prolasso, il rilassamento di quegli anni. Di malattia, perché io il fegato mi si è rovinato da quando ho cominciato a vedere Silvio Berlusconi. Già dalle prime volte dicevo ai miei, non vi fidate. Quindi lei... mi veniva la pelle d'oca, perché lo vedevo, sentivo falso, con tutto costruito dietro, nei capelli. Tutto nel vestire. E cosa la rassicurò allora? Si ricorda cosa la rassicurò dopo questo periodo in cui lei aveva sedimentato un così profondo disprezzo e odio verso una persona? Che in fondo, però, questo era rassicurante. Avere un punto di riferimento del male assoluto ci fa sentire molto buoni, molto diversi. Che è un contributo, che è una parte della non le è mancato un nemico nei 20 anni che sono venuti dopo, con cui ha avuto affari? Io ce l'avevo un nemico, ma dopo non le è mancato, quando non c'è più stato, quando è scomparso. Adesso mi sto riprendendo il mio fegato, che si era ammalato. Anche se non è, so che sto con una persona affidabile che mi farà delle cose giuste, anche se poi non ci riuscirà, ma comunque pensa a noi e non pensa a se stesso. Questa è la mia opinione. Va bene, sentiamo Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti della trasmissione. Io sono molto emozionato, veramente. Ma queste frasi pensavo che nel 2031 non si usassero più. Ma comunque, 20 anni fa, si ricorda cosa accadde? Come sentiva lei? Io 20 anni fa veramente ero molto, sono stato sempre responsabile, ma all'età che avevo 10 anni, perché io nel 60 sono salito su in Piemonte a lavorare. Non ho capito niente. Vabbè. Ok, però, andiamo avanti. No, siamo oggi nel 2031. Lei si ricorda cosa accadde 20 anni fa, nel 2011? Ma adesso è il 2011 che ma stiamo facendo un gioco, un po' di astrazione. Mi scusi. Questo era il senso della trasmissione. No, perché parlare del 2000, di quello caduto l'altro ieri, lo fanno tutti. Io voglio parlarne dopo 20 anni. Siamo nel 2031, facciamo la storia, il nostro ricordo di quel venerdì del 2011 in cui sembrava che il mondo fosse cambiato. Se lo ricorda lei? E io vi ascoltavo. Ascoltavo benissimo. Era molto più giovane, quindi era un po' più lucido. Però cerchi di ricordarsi. Sì, allora... Ho capito il significato. Io sono di un parere del 2011-11 è tutto, anche se non è uscito l'11, no? Vabbè dai, si rilassi un attimo, vai, riprendiamo dopo. Michele, buongiorno. Buongiorno a voi. Vediamo se riusciamo con lei ad andare avanti, perché... Lo spero vivamente. Perfetto. Io sto raccontando a mio figlio, che c'ha 20 anni ovviamente... Sì. La duplice mistificazione di quegli anni, che allora è appena nato, era, immagino. Immagino, sì, era così, c'è un anno e mezzo. E gli sto spiegando che ci fu una duplice mistificazione. La prima, la grande euforia dopo l'ascesa del tecnico che sostituisce i politici, e che però attuò ricette che non stavano bene né ai politici di destra né ai politici di sinistra, e che comunque erano contro lo Stato. E cosa accadde poi, secondo lei? Si ricorda cosa accadde? Perché io poi la mia memoria è molto offuscata. Cosa accadde negli anni a venire dal 2011? Ma visto che lei lo ricorda con tanta lucidità, cosa accadde? L'euforia sfumò piano piano, mentre si sentivano sempre più sulle spalle le vergate provenienti dalla politica monetaria della Commissione Europea. E quindi cambiò lo stile, il genere di vita. Guardi, abbiamo un importante documento proprio preso da quegli anni lì. Vediamo se si ricorda se le ricorda lo stato d'animo e il senso profondo di come cambiò il punto di vista degli italiani. Ho un paio di scarpe per l'inverno e un paio di sandali per l'estate. Unico lusso? Questa scatola di mentale, una alla settimana. Le altre volte sei sempre stata in una camera quadriletto. Sei forse stata male, ti è mancato qualche cosa. No, dimmelo per favore. E allora? E non dimentichiamoci che qualcuno è nato in una mangiatoia, chiusa la parentesi. E noi invece ci troviamo a partorire dove? A Hollywood con la televisione. Che cosa è successo? Ho vinto Totocalcio, sono diventato matto. Come mi giustifico? Che cosa dico alla gente? Ci dici così che hanno pagato tutto il suo papà e la sua mamma, che se lo possono permettere. Sì, lo so. Il racconto dei nostri ascoltatori, delle volte delle lacune, delle volte non è molto chiaro, però è importante per definire cosa accadde quel venerdì di 20 anni fa, oggi che siamo nel 2031, con il distacco, con la leggerezza e con la mancanza dei toni accesi, del pathos che si viveva in quegli anni, capiamo... Come potremmo raccontare cosa accadde nell'Italia di quei giorni? Come cambiarono gli italiani? Improvvisamente tramontò l'impero della ciccia baffa e iniziò qualcos'altro. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Se tu sei una bella donna e ti vuoi vendere, tu lo devi poter fare, perché anche la bellezza, anzi soprattutto, come dice Sgarbi, la bellezza ha un valore. Se tu sei racchia e fai schifo, te ne devi stare a casa, perché la bellezza è un valore che non tutti hanno e viene pagato, come la bravura di un medico, è così. Allora, chi questo non lo capisce, il ruolo della donna viene minimizzato, allora stai a casa, ma non mi rompere i coglioni, è la legge del mercato. Ricordate, sono passati 20 anni, tanto tempo, ma chi non ricorderà quel lontano 2011, quando, che oggi ricordiamo, nel novembre 2031, a 20 anni a differenza da quel venerdì che sembrava cambiato tutto. Avete sentita? Si chiama Terry De Nicolò, era una delle sacerdotesse della ciccia baffa, che sembrava essere l'elemento caratteristico che maggiormente caratterizzò quell'epoca. Un'epoca felice, un'epoca disgraziata, un'epoca folle, un'epoca fantasiosa, un'epoca un'epoca futile, un'epoca odiata, un'epoca denigrata, un'epoca in cui i moralizzatori ebbero un grande ruolo, in cui i dissipatori ebbero un altro enorme ruolo. Erano 20 anni fa, io ricordo pochissimo, la mia mente è sempre più appannata, ma chi può aiutarmi oggi a ricordare? Sandro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Si ricorda lei di 20 anni fa? Mi ricordo perfettamente. Come fosse oggi? Come fosse oggi, mi ricordo perfettamente, perché ci trovammo con dei miei amici, ci sentimmo per telefono, allora... Eravate tanto giovani, penso. Ma no, avevamo 49 anni, 49, 47, 46 e 50, amici di sempre, amici miei da buon toscani, e festeggiammo in Piazza del Campo a Siena la nostra culla, la nostra seconda madre, con un aperitivo tricolore, facemmo come fosse un'unione tra i 150 anni dell'Italia e una nuova era, un nuovo risorgimento, un qualcosa che facesse finire la Repubblica del Perizoma, la Repubblica delle Veline, la Repubblica dei saluti con le corna alle foto ufficiali, e ci ridesse un personaggio che ci rappresentasse. Quindi diciamo che il mio ricordo non era poi tanto offuscato. Quello che di quel periodo saltava più era di essere guidati in una sorta di paese del Bengodi, a cui non partecipavamo personalmente, carnalmente. Vedevamo come dietro un palazzo di cristallo pieno di ori, di lussi, di bellezze, di donne leopardate, quello che facevano i potenti invece che governarci. Poi siamo stati tutti contenti che è arrivato il rigore, è arrivata l'austerità, è arrivato un signore che si occupa di economia, che la domenica mattina va messa con la moglie tranquillamente, che non scherza, che non ride, che fa i fatti concreti. Fu quello il cambiamento. Fu quello, però sa quella cosa più triste di quel periodo, che mi ricordo bene qual era? È quando, mi sente? Sì, come no. È quando andavamo in ferie. Sono vecchio, sono passati tanti anni, però un po' ci sento. Ha ragione. Ma anche io l'udito lo sto perdendo un po'. 20 anni fa era un'altra cosa. Quando andavamo in ferie all'estero, magari, con quei pochi risparmi che riuscivamo a mettere da parte, e ti vedevano italiano, ti dicevano Berlusconi e iniziavano a ridere. Questo mi dava un fastidio. E poi invece gli anni dopo cosa fecero? Gli anni dopo una lenta ripresa, piano piano, come si deve nei frangenti della storia più bui. E si aprì un periodo felice per il paese. Io spero che sia. Sperava allora. Speravo che fosse felice. Va bene. In realtà lo è stato. Però un'ultima cosa, poi la saluto gentilmente. E come no? Sai, io nella mente più offuscata cosa mi ricordo? Mi ricordo di aver visto una scena simile di gente che fischiava, urlava e tirava monetine qualche anno prima a uno che si chiamava Bettino, mi sembra. Sì. Questo ancora è più lontano nel tempo, e allora ho fatto un paragone, chissà se anche questo prenderà l'aereo. Beh, non è che portò tanto bene però quella cosa lì poi alla fine. Lo so, però vede, certe volte come c'è un proverbio indiano che dice che le vittorie sono figlie di grandi sconfitte. Grazie, Francesco. Buongiorno Nicoletti. Io sono di Milano, però 20 anni fa... Vedo che i ricordi sono molto assimilati, però ricordano tutte le stesse cose. Nessuno ha un ricordo diverso di 20 anni fa. Prego, prego, Angelo. Io sono di Milano, però mi trovavo a Roma casualmente proprio in quei giorni, perché mia moglie compiva 50 anni, adesso ne ha 70. Poverina, adesso ormai sarà inguardabile, certo. Assolutamente. Lo so, allora ancora nel fiore. Ai tempi reggeva ancora, insomma. Ancora allora... la teneva insieme. Ma erano anni che le donne andava molto di moda il camuffamento estetico, si usava molto il silicone, il botox. Io mi ricordo c'era una generazione di donne che poi erano anche molto molto potenti, alcune, o perlomeno avevano luoghi di potere, che non sembravano nemmeno donne, completamente artefatte, costruite, gonfiate. Oggi non si usano più quelle materie, ma una volta le donne si riempiono di silicone, di botulino, si ricorda? Sì, beh, mia moglie non era di quel genere lì, insomma, ecco, però... Senta, no, noi siamo andati il venerdì 11-11-11 al Testaccio, abbiamo festeggiato il compleanno appunto di mia moglie che era in quei giorni, e tra i vari brindisi appunto abbiamo festeggiato anche la fine dell'impero, del regno della gnocca, come così come mi ricordo ai tempi più o meno c'erano queste definizioni. No, ciccia baffa, abbiamo usato un termine nuovo, perché sennò patonza, gnocca, sono un po' esasperati, abbiamo pensato una cosa più fantasiosa, più naif, perché sennò sempre le stesse cose si dicono. Scusi, mi ricordo che in quei giorni, tra l'altro, c'era una certa signora Annarella che era fuori da Montecitorio, io il giorno dopo andai a... Ah sì, una vecchia scatenata che è diventata un personaggio di culto. Sarà da roba mancata da anni. Beh, l'hanno mummificata, l'hanno messa, l'hanno esposta al pubblico come una delle icone più sacre di quel periodo. Annarella è una signora scatenata che per anni, a quei tempi, transitava attorno a Montecitorio, era una sorta delle punte più avanzate di un movimento di signore, di umarei che protestano per le pensioni tagliate, che era diventato un simbolo. Quando quel venerdì pomeriggio Annarella scese in piazza Montecitorio ci fu un'ovazione, quella che diceva Silvio ste prendo te sfascio, e Annarella oggi, passata miglior vita quando fu il suo momento, fu mummificata, fu traslata sotto un altare, esposta alle folle, ancora ci sono processioni perché Annarella fa miracoli. Ma diamo un altro esempio di come cambiarono le cose in quel periodo, quale fu quello che... il segno più tangibile del rinnovamento in un documentario dell'epoca che Fabrizio Intonti ha ritrovato per noi. Come usare l'olio rancido? Ridurre in polvere 100 g di carbone di legna e metterlo in una bottiglia con 300 g di olio irrancidito. Agitare e lasciar riposare per un giorno. Agitare nuovamente e lasciar riposare per altri 2 giorni. Poi filtrare attraverso un pezzo di flanella. Come utilizzare la carne andata a male? Avvolgetela in un telo asciutto e immergetela in un recipiente, ricoprendola interamente, sia sotto sia sopra, di carbone di legna ridotto in polvere. Lasciatevela per 2 ore, poi lavatela con acqua calda e aceto, asciugatela e fatela cuocere. Io ricordo, questo lo ricordo bene, che il servizio pubblico cambiò molto e i programmi Rai di prima serata erano questi, erano degli utili consigli di come appunto risolvere il problema del ménage quotidiano. Carolina, buongiorno. Buongiorno Gianluca, che piacere ricordare insieme a te. 20 anni fa, si ricorda quanto eravamo giovani. Eravamo giovani, ma anche da poveri vecchi ricordo quando si sciolse il cerone, saltarono le paillettes e scoprimmo che eravamo stati sotto l'impero del grande Umarella e non ce ne eravamo accorti. Beh, non eravamo accorti, qualcuno aveva anche votato il grande Umarella, perché non è che era arrivato lì per caso. Ma perché faceva il grande Giovanette, invece era un grande Umarella. E subito si scoprì che tutti i fasti non esistevano più. Ma perché ve ne accorgeste dopo? Ve ne accorgeste quando si trovava in una situazione di difficoltà, diciamo, nessuno se n'era mai accorto che dietro il grande roboante mago di Oz c'era un Umarella. Era una metafora che di solito facevo a quei tempi molto volentieri. Quindi lei si ricorda esattamente che ci fu una sorta di svelamento, colui che sembrava un impavido e invitto condottiero in realtà il grande Umarella. Era il grande Umarella e per incanto le giovani veline scoprirono una grinta. Non è che dopo è venuto però proprio un ragazzino al posto suo. No, però è lì, saltò l'Umarella, le giovani veline scoprirono l'aggressività, la grinta, scoprirono che non erano sedute proprio sulla propria fortuna, ma la propria fortuna l'avevano in testa, e quindi spiegavo ai miei nipoti che ecco perché oggi abbiamo una Presidente del Consiglio, una Presidente della Repubblica. Fu da lì che cominciò la rivoluzione. Beh, certo, nel 2031, come lei ci sta raccontando, comandano soltanto le donne, gli uomini stanno a casa. È andata così, probabilmente potrebbe esserci un outdoor adesso, però sono contento, anzi la lascio perché in questo momento devo andare a fare il soffritto, intanto vanno le informazioni del traffico, poi ci risentiamo in questo felicissimo 2031. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Per cui mi raccomando, da domani spremere i meloni per partorire idee che saranno della Madonna. Esatto, arrivederci, è stato un piacere. Ma dove va Rambelli? Ma perché? Non la vorremmo partorire proprio stasera la campagna? Le chiedo un sacrificio per la vita, si sieda. Pronti, partoriamo lo slogan. C'ho già le doglie, velatissimo, il colan arrabbiatissimo. Eh? Ma siamo scarsi, Rambelli, siamo scarsi. Velatissimo, il colan spiritosissimo. Certo, come è mistificatore il tempo passato. Pensate, parliamo di un evento accaduto 20 anni fa, nel 2011, e portiamo a supporto una clip che parla dello yuppismo, dei felicissimi anni 80, degli anni del rampantismo, degli anni della libera imprenditoria, che fu, diciamo, una sorta di prologo a quegli anni 2010, ma passarono però altri 30 anni. E oggi, nella confusione del tempo passato, mettiamo tutto in un calderone, come se fosse la stessa cosa, come se Jerry Calà, che negli anni 2011 era un vecchietto senza capelli, senza denti, che ancora era l'ombra di se stesso, fosse ancora così gagliardo tanto da attentare alle grazie di Sabrina Salerno, moglie del suo principale. Franca, buongiorno. Buongiorno. Dunque, siccome nel 2031 spero proprio che sarò nell'alto del cielo. Ma quindi lei mi sta parlando dall'oltretomba, è un ectoplasma. Non mi sente? No, è lontana, sai, lo so, è un'ombra. Che devo fare? Ombra inquieta che parli dall'aldilà. Parlo dall'aldilà, no, certo. Dico, è già morta nel 2031. Nel 2031, visto che... Ma allora che aveva 70 anni, si ricorda da viva? Sì, nel 2011 avevo 70 anni e quindi nel 2031 i giochi sono tutti finiti. Certo, è morta. Certo. E se così ci sarà quello che si dice... finalmente capirò perché gli italiani... Ma ombra inquieta dell'aldilà, come ti ricordi quel 2011? Me lo ricordo molto tristemente, me lo ricordo con la malinconia di appartenere a una nazione che è stata la culla della cultura di tutto il mondo. Quando questo? Nel Rinascimento? Nella preistoria, vogliamo partire solo dai romani. Ma per questo lei, vaga inquieta, ancora non ha imboccato il tunnel di luce? Perché no, ha questa angoscia? Non l'ho imboccato e nessuno mi ha ancora detto... Ma vada mai... verso la luce, vada verso la luce, Franca. Ho capito che non vuoi sentire... No, la sento, la sento, come no, capita mica sempre. Come mai questi italiani hanno bisogno di queste figure, di questi potenti, di questi ego, di questi uomini che manifestano, quando questa Italia l'hanno fatta tutti gli italiani? Dicono che siamo la settima, l'ottava potenza dell'industria. Eravamo al tempo. Eravamo, giusto, mi poi scusi. Poi lei che problema più ormai? La temporalità se l'ho persa. Sì. Insieme alla carne. E dunque, che bisogno c'è? Mai delle idee, mai dei contenuti, mai della verità. Abbiamo bisogno sempre di queste figure, di questi Napoleoni. Viva i francesi! Vabbè, che male c'è? Guardi, Franca, le auguro di imboccare il tunnel di luce, finalmente la sua anima si placherà e smetterà di vagare in questa sorta di limbo inquieto per la sua terrificante angoscia di ciò che poteva essere e non è stato. Angelo. Pronto? Angelo. Pronto? Eccoci qui, ciao Gianluca. Ti ricordi com'era il 2011? Mi ricordo, qualche volta ci si vedeva anche ogni tanto. Io ricordo quel giorno, 11-11-2011, in cui feci una riflessione che poi si è rivelata reale. Si è verificata quel giorno una grandissima contraddizione, cioè mentre grazie al mondo globalizzato, ai social network, gli italiani pensavano di essersi riappropriati della democrazia. Ah sì, vero, mi ricordo. Scusa Angelo, un particolare importante che nelle nebbie dell'oblio l'avevo perduto. Erano gli anni in cui gli italiani erano i maestri di Facebook. Ti ricordi questo termine, Facebook? Sì, infatti. Nei social network si sentivano degli dèi. Sì, costruivano e smontavano dalla mattina alla sera. Movimenti di opinione, è vero. Movimenti di opinione. Invece in realtà una entità terza, il mercato, faceva venir meno la sovranità degli stati. E si è inaugurato un modello di democrazia in quell'anno, l'Italia ha fatto, non volendo, da pilota, completamente nuovo, in cui proprio per il sovrastare dell'economia le democrazie si sono trasformate in società per azioni, dove gli azionisti erano i partiti politici che rappresentavano gli italiani, che delegavano ad un tecnico terzo, un amministratore delegato, la guida del paese. E alla fine questo si è rivelato anche un modello forse vincente, che è stato copiato da altri stati. Va bene, c'hai fatto un escursus storico di quello che è accaduto nei decenni a venire. Io ho ritrovato dei vecchi sms, penso che mi mandarono 2 giorni dopo questo evento, mi scrivevano: peccato che non riesca a nascondere il suo dispiacere per la gioia del suo ascoltatore. Ma io non sono né dispiaciuto né euforico, sono esattamente come ero venerdì. Non ho capito perché in quel periodo era così difficile trovare un posto libero nei ristoranti e negli aerei, non mi sono mai data una risposta. Francesco da Siena ricorda quello che fu appunto quel ventennio, quegli anni di 20 anni fa. Angelo, sentiamo Angelo. Angelo ha già parlato. Lamberto. Sì, salve Nicoletti, che bello sentirla a distanza di 20 anni finalmente. Lo so, vede, da poveri vecchi. Mamma mia, l'emozione, ho paura che mi faccia saltare la prostata. Cuore, se la tenga stretta, andiamo avanti. Allora, io mi ricordo 20 anni fa l'entusiasmo, la gioia, il senso di libertà, pure io me l'ho fatto coinvolgere, poi però alla fine uno si è reso conto, lo sa anche lei, nel giro di 20 anni le belle speranze dei giovani di allora sono diventati i rampanti di adesso, alla fine gli scandali, è tutto tornato insabbiato, alla fine i politici... alla fine, quindi lei ricorda con mestizia quel periodo? Non so, perché sa di tutte le persone che hanno ricordi, ce ne fosse uno che si è ricordato che quel giorno per lui è stato un giorno triste, un giorno di disfatta, un giorno in cui ha visto crollare dei suoi ideali, eppure fino a poco tempo prima era una sorta di pensiero imperale. Come mai sono tutti scomparsi quelli? Ma lei, se lei guarda anche adesso, tutti quelli che all'epoca alla fine contribuirono a far andare su chi dopo fu buttato giù, nessuno era mai disponibile a prendersi la responsabilità. Io assolutamente, o se l'aveva fatto, l'aveva fatto la prima volta, ma così, ma tanto per fare. Quindi ci fu il famoso voltagabbanismo della ciccia baffa, un evento che la storia non ha ancora sondato con sufficiente interesse. Claudio. In realtà io sono Carlo Marx. Non mi chiamo Claudio. Ah beh, sì, certo, infatti. Mi hanno clonato il numero. Sì, ci fu la famosa legge Basaglia, dopo 20 anni ancora se ne sentivano... Sì, dica. Hanno clonato pochi anni fa, ho letto ciò che è successo l'11 dell'11. Sì. Io dicevo che l'economia era la vera struttura sociale, ho sempre scritto. Sì. Ma poi mi sono sbagliato leggendo, perché io non ho vissuto il periodo di 20 anni. Sì, ma poi diciamo che sul desiderio di applicare il socialismo reale per queste masse liberate lei fece qualche sbaglio, perché in realtà volevano tutti, infatti, fare la bella vita. Lo stavo dicendo, il tecnocrate... Non fu l'economia ma la ciccia baffa a dare là alla media aspettativa del mondo, no? Però io ricordo quello che ho letto e ho visto, insomma. Il tecnocrate fece bene il suo lavoro, in pochi anni la disoccupazione scomparve, come tutte le diseguaglianze sociali nel vostro paese. Ciò che successe in Italia si propagò poi in tutto il pianeta, la fame, le guerre, le ingiustizie scomparvero completamente. Che bello, guardi, sembra proprio che si avverò la profezia del desiderio di ogni Miss Italia, antico concorso 20 anni fa, cosa vuoi? La pace nel mondo. Noi l'abbiamo avuta grazie a Alessandro Chiappini, bis padre, che ha fatto il secondo figlio 20 anni fa, oggi c'ha 20 anni, è già partito per il paese esteri, grazie a Fabrizio Intonti e grazie a tutti, torniamo al nostro tempo. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.